11 in punto sono scattate proprio in questo istante nel nostro orologio, qui nello studio di Radio 24. Siamo tornati nel vecchio studio della diretta. Devo riprendere le misure del microfono, dei tasti. Beh, ricominciamo dal nostro vecchio studio il sabato, però come di solito accade, dalle 15 alle 18 il nostro sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia e poi, insomma, diciamo che è un po' il nostro tutorial per un bel weekend. Nella terza ora però, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo come sempre compagnia, ve lo assicuro, ma anche voi però tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola e l'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio è sempre un po' lungo, quindi ormai lo sappiamo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Ovviamente le tecnologie ci sono nella prima ora del nostro sabato del villaggio con Enrico Pagliarini, che ci svela tutto sui tracking devices Bluetooth. Il nome è tutto un programma, ma pare sia qualcosa di perfetto per gli smemorati. Li scopriremo e li proveremo dopo con lui. Tanto tanto cinema con tutte le novità nel weekend, ma subito proprio un film che è già un fenomeno di costume, un appuntamento da non mancare. Andrea, ripetici la ricetta della pasta col nulla per gli esuli fuori dall'Italia? Allora, amici esuli, tranquilli, tanto nulla c'è dappertutto. Poi non mi fate ingannare da usi nordici, buttate la pasta solo dopo che l'acqua bolle, in questo caso abbiamo dei fusilli, e poi mescolate con nulla che trovate in frigo, in questo caso mezzo barattolo di ricotta, pecorino fatto a dadini, un rimasuglio, sale, origano, un po' di pepe e proprio tre pomodori passati. Allora, ascolta. Ilaria, ti muovi o no? Arrivo! Già che ci sei, prendi il peperoncino, vai! Ma l'ho buttato. L'ho ripreso. Ah, chi ne ha spazzato ora? La verità è questa. È un film che ancora prima di uscire è già un fenomeno. Perché? Ne hanno parlato tutti perché ha vinto il premio del pubblico a Roma. Ne hanno parlato tutti perché è stato in un sacco di festival. Adesso c'è stata qualche proiezione in giro, i giornali sono già pieni di notizie su questo film che si intitola Fino a qui tutto bene. E chiediamo appunto, secondo me, fino a qui tutto bene, lo chiediamo al regista Rohan Johnson. Buongiorno Rohan. Buongiorno. E a Paolo Cioni, buongiorno Paolo. Ciao. Fino a qui tutto bene, Ron? Assolutamente, fino a qui sì, non ci possiamo lamentare. È stato tutto una sorta, no, di sorpresa, nel senso che avevamo già trovato una distribuzione prima di andare al Festival di Roma, anzi avevamo avuto un paio di proposte e poi abbiamo deciso di andare con Microcinema, che è un po' un caso raro perché dentro ci sono tutti questi ragazzi che sono più giovani di me, quindi veramente giovani non solo all'italiana, e quindi che avevano molto apprezzato il film e si erano, insomma, in qualche modo identificati. E poi siamo andati a Roma, l'accoglienza era stata molto bella e poi, insomma, sono arrivati i premi, il premio del pubblico che era quello più bello e più importante, poi altri quattro collaterali, ha vinto Silvia D'Amico miglior attrice, abbiamo vinto il premio Signis e poi un premio alla regia, e quindi, insomma, più di così non poteva andare, quindi fino a qui tutto meglio di così non poteva andare. E poi appunto anche le recensioni sono state molto belle e ora appunto il 19 marzo usciamo e incrociamo le dita. Insomma, una storia bella. Io ho riso come una matta, ma mi sono anche commossa, ho pianto all'inizio, a metà, alla fine, perché ci sono un sacco di registri, cioè il registro della commedia, perché sono gli ultimi giorni di vita, di trasferta di alcuni studenti universitari, e quindi immaginiamoci già la condizione in cui si trova la casa, le loro vite. Però è anche, posso usare quell'espressione bruttissima del ritratto di una generazione, però di fatto un po' è così. Che poi, allora, Ronio, io te, sì, siamo giovanissimi, però tu parli di quelli ancora un po' più giovani. Sì, io, questa qui è una generazione che appunto è come se si saltasse una generazione dalla mia. Io mi sono laureato a fine anni 90 E poi quando siamo andati a, appunto, intervistare i ragazzi, gli studenti universitari di adesso, oltre a raccontarci tutti degli aneddoti buffi, divertenti, delle loro vite sia a scuola che nelle case, ci avevano sorpreso un po' perché avevano tutta una consapevolezza ovviamente molto forte della crisi, cosa ci sarà, il futuro, oddio, il lavoro, un domani, eccetera, però c'erano questa determinazione a non arrendersi, cioè a dire vabbè, in fondo io la crisi non è che ho delle colpe, no? Perché dovrei pagarne le conseguenze? Perché dovrei trincerarmi, fare qualcosa che non amo? Io voglio seguire la mia passione, piuttosto magari puntare più in alto, però fare la cosa che amo. E questa cosa qui ci aveva veramente molto sorpreso al tempo, ed è stato uno dei temi poi che è in questo film, che come dici te appunto è una sorta di scavallamento, no? Di un periodo che è un periodo secondo me magico, che in cui tutti un po' ci si può identificare, che è quello dove ancora non stai con la tua famiglia, non sei diventato genitore, non stai più con papà e mamma, ma hai un'altra famiglia, no? Che sono i tuoi amici fondamentalmente, ed è un periodo dove impari perché puoi sbagliare, fai le cavolate migliori, le feste più folli, ti innamori quasi sempre della persona sbagliata, no? E a un certo punto però deve finire questo periodo, e quindi un po' da quella piscinetta devi uscire il mare aperto. Ecco, il film appunto racconta un po' questo momento di passaggio. Ultimamente ho iniziato a pensare che voi andate tutti via. Oh, lo so, io rimango qui, la tesi, l'esame, a Pisa da solo. Non era la meglio città del mondo. Chiaro è la meglio città del mondo, ma da solo. Solo c'hai 100.000 pisani intorno. Appunto. Ma ci potessi rimanere io a Pisa? Sì, anche io, Cioè, tanto Milano. Ma vogliamo parlare di dove rischio di finire? Cioè, vabbè, tu ti vuoi rimanere, poi chissà come mai andare tutti via. Vabbè, dai, magari fa qualche mese io torno. Ma che torni? Te con Marco, me, Palcina. È più probabile prendere un aereo io e venga da te. Allora vai, no? Te lo dico cosa succederà. Tra 6 mesi, una notte, sarò a casa dei miei, gonfio di cecina, vi sognerò tutti da lontano e mi salutate con la mano. Ciao, ciao, ciao. Mi si imploderà il cuore. Johnny, così mi fai piangere. Ci sta bene, dovete piangere tutti, bastardi. Da alcune interviste, da un documentario che hai fatto nell'Università di Pisa, però film di finzione, quindi hai preso degli attori, anche se mi hanno detto che all'estero ti hanno chiesto se era tutto improvvisato, perché sembra... Io guardo anche Paolo, perché l'effetto, credo voluto, è quello poi di un effetto realtà. Sì, quello è un metodo che già avevo vissuto sulla pelle con l'altro film di Rohan prima, che avevo fatto anche quello che era prima della lista. Sì, Rohan ha questo modo che sono delle prove dove noi si dice delle battute scritte, ma che in realtà sembrano dette, non si capisce come funziona, è una specie di diciamo, sembra una parola retorica, ma magia che succede, tutto dal fatto che Ron ha questo trasporto emotivo verso quello che scrive, essendo anche lo sceneggiatore. E noi veniamo influenzati da tutta questa verve, questa forza e questa energia nel cercare di passarci quello che lui vuole ottenere. E questa cosa, secondo me, è un riflusso. Siamo tutti dei Ringo Boys, siamo bianchi e neri praticamente. No, devo dire che, guarda, grazie che ci hai fatto questa domanda, perché torno appena adesso da Londra, dove c'è stata una proiezione, e appunto al dibattito dopo ci hanno richiesto, come ci avevano chiesto a Parigi, ma quindi è molto improvvisato questo film, e penso che sia il complimento più bello che possono fare ai 5 attori, perché è tutto improvvisato. No, perché in realtà c'è il 90% della sceneggiatura, è lì. Noi ovviamente facciamo le prove prima, e ovviamente ognuno di loro si cuce addosso anche le battute, i dialoghi, anzi loro comunque hanno contribuito in qualche modo anche alla scrittura, però poi riscriviamo tutto, e quando arriviamo sul set in realtà di improvvisazione c'è veramente pochissimo, e sono molto orgoglioso, appunto gliel'ho subito detto sia dopo Parigi che Londra, insomma tutti gli attori, ho detto secondo me è il più bel complimento che vi possano fare, la gente pensa che eravate lì a dire battute a caso. Sì, bisogna anche dire che Rohan è molto molto pignolo, quando si fa una scena spesso finché non ottiene quello che vuole nella sua mente. Insomma, è un po' un rompi. Tondi, quelle cose tonde e sferiche. Okay, ecco. Ok. Tra l'altro, Paolo, tu sei il Cioni, sì, anche nel film. Il Cioni. Sì, sì. E hai l'ingrato e difficilissimo compito di essere la maschera del toscano, che è sì, qualcosa di terrorizzante. Sì, perché hai predecessori di illustri e non, ecco, di grandissima notorietà e caratura in Italia e all'estero, e quindi devi seguire le orme non seguendole. No, infatti, io per fortuna spero di essermi poi ovvio, quando incontri le persone, ovvio che ti dicono: ah, sembri quello, sei quell'altro, mi ricordi lui, è così. Ah, per cui... quello là addirittura? Sì, egli, poi il giovane, oppure un fresco, oppure una versione di... cioè è sempre così, però in realtà... io cerco sempre di fare una strada alternativa, sperando di riuscirci, insomma. C'è da dire fare una cosa, qualcos'altro, ecco. C'è da dire una cosa di Paolo, che appunto io l'ho richiamato anche dopo i primi della lista, e si chiama Cioni nel film perché era l'unico personaggio che io e Ottavia sapevamo, quando scrivevamo, sarebbe stato interpretato da Paolo Cioni, quindi era l'unico a cui avevamo era tuo per forza. Sì, infatti piangevo a casa tutte le sere non per felicità, per quello che avrebbe scritto Ron su di me. e devo dire che Cioni, comunque, il personaggio poi è anche molto ispirato a Paolo Cioni, perché appunto ci siamo conosciuti con i primi della lista. Corte, è vero, i soldi sono un po' attaccati ai l'anguria, soldi, ma... l'anguria un po' troppo, no, dai, quello diciamo che sono ricordatevelo quando andrete a vederlo, esatto, l'anguria. Diciamo solo questo, diciamo solo la scena dell'anguria, ecco, diciamo solo questa, che rimarrà, diciamo, e no, la cosa che veramente mi sembra bella di Paolo è che lui viene, non sembrerebbe, lo so, però lui viene da un percorso accademico molto importante, nel senso che lui aveva fatto teatro a Pisa, poi è stato preso alla Silvio D'Amico, che fondamentalmente è la più importante scuola in Italia di teatro, e poi ha fatto molto teatro, tra l'altro ultimamente è stato preso da Ugo Chiti per fare il Pinocchio, insomma, sì, diciamo così, ritorniamo anche a egli, il Benigni, sì, perché capito, poi si chiama pure Paolo Cioni, quindi ovviamente tu dico, ma tu ricordi il Mario Cioni di Benigni? Sì, ovviamente. E però allo stesso tempo, avendo questa formazione così teatrale, così accademica, e quindi è un attore con la A maiuscola, c'ha quella proprietà che veramente invece ti deve dire culo, cioè c'hai la faccia che tu lo vedi e ridi solo se ti fa un'espressione. C'è il momento in cui la scena, quando Ilaria, no, dice che il suo piano per dire ai genitori che è incinta, ah, sì, e lui fa una faccia che è finita anche sul trailer, che è fantastica, cioè solo quella faccia lì ti fa ridere. Io non me la ricordo, ma sinceramente, ce la puoi anche quando fare mi alla vedo, radio, ma che... sì, però fagliela. Eccola. Ecco, beh, vedi, è vero, è vero. Cioè, vedi che già io no ma non è che tenermi. Io non stavo facendo la faccia tanto. Morirò di incidente stradale, perché il mare non mi vuole affogare. Morirò baciando un pino seolare, perché un polpo non potrebbe mai farmi del male. E questi sono i Gatti Mezzi, mi hanno detto che Gatti Mezzi significa gatti fradici a Pisa, vabbè, insomma, sono i Gatti Mezzi, questa è Morirò di incidente stradale, che è la colonna sonora, il brano portante della colonna sonora di Fino a qui tutto bene, con Rowan Johnson e con Paolo Cioni. Però ci ritroviamo tra pochissimo, perché adesso è il momento di sentire come sta andando la situazione su strade e autostrade, perché il sabato è sempre fondamentale. Allora, diamo la linea agli aggiornamenti, beh, insomma, con questa canzone. Magari no, ma si capisce perché nel film. Vabbè, ci ritroviamo tra un istante. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo ancora con il sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, ma anche il nostro tutorial per un bel weekend, per sapere anche tutto dei grandi fenomeni. Con noi ancora Rohan Johnson e Paolo Cioni, regista e sceneggiatore insieme a Ottavia Madeddu e attore di Fino a qui tutto bene. Comincia a girare in questi giorni con un po' di appuntamenti in sala, la grande uscita però sarà giovedì per un film da non mancare. Rohan, Paolo, ancora un assaggino di Fino a qui tutto bene, eccolo. Ok, dai, chiamo. Però facciamo a modo mio. Io voglio fare questa telefonata con Cioni. Eh? Sì, te fai finta di essere mio fidanzato. Allora io gli dico che c'avevo questo ragazzo tanto bravo, disponibile. Vai avanti. Poi resto miracolosamente incinta e lui muore. Ma sì, oh. Ma guarda che mi vorranno tutti bene, mi daranno un sacco di soldi. Meglio così che se ci avessi il padre vero. Geniale. No, ma che geniale. Cioni, è geniale, ma come fai a dire di no? No, ma questa è una minchiata, e poi è morto, non lo voglio fare. No, dai, ma te devi solo far finta, tanto sto a Frosinone. Capito, il funerale cosa fai? Fai per finta? No, il funerale prendo un aereo, vengo a Pisa, faccio 2-3 foto sfocate a un altro funerale e poi torno indietro. Cioè, vabbè, loro non vogliono venire. Sì, poi ora non conosci gli altri nonni, dai, una cazzata stai. Vabbè, facciamo che sono morti pure loro. Ma ci state pensando davvero? O voi siete di fuori, io stai alzate pure fuori. Se ti chiedessero di farne una serie, magari te l'hanno già chiesto. C'è stato qualcuno che ha iniziato a dire questa cosa qui, mi dicono molto, remake, Fino a qui tutto bene, due, serie, credo che ci sarebbe moltissimo materiale, ci vorrebbe però un'altra idea, cioè qui fondamentalmente il film è riuscito ad essere così indipendente, libero, perché c'aveva un'idea che tra l'altro ha avuto Ottavia, che è piccola ma è fondamentale, in realtà è piccola e immensa, come hanno scritto in qualche recensione, cioè gli ultimi 3 giorni di una casa, no? Di 5 amici in una casa che è stato il teatro di nottate sui libri, feste, scazzi, litigate, amori, e devono ora ridare le chiavi al padrone di casa e ognuno andare per una propria strada. Ecco, questa è un'idea che c'ha una drammaturgia dentro, c'ha un conflitto specifico, c'ha una clessidra di tempo che va giù e che quindi ti fa in modo di accompagnare nelle storie, nei personaggi, e quindi tutte le tensioni vengono a galla, le cose che non si sono mai detti, eccetera. Quindi sì, si potrebbero fare sicuramente, però bisognerebbe mettersi lì e trovare un'altra idea, cosa che in Italia non si fa mai, non si cerca mai l'idea. Bisogna stare lì tanto tempo, perché poi i film, io sono 2 anni che sto dietro a questo film, quindi è bene avere un'idea giusta prima di partire con un film, secondo me. Parlando di fenomeni, per qualche anno in Italia sono andati molto bene i film dei grandi comici, magari televisivi, con incassi multimilionari. Non che quelli non vadano più bene, però ultimamente, negli ultimi anni, sono emersi anche film più o meno piccoli, anche se magari non garibaldini come il tuo, realizzato in maniera molto avventurosa. Film più o meno piccoli, però con uno spirito più indipendente. Penso a Smetto quando voglio, penso insomma a questo genere di film, lo stesso Noi e la Giulia di Edoardo Leo. È una nuova tendenza? Io spero di sì, io spero proprio di sì. Sì, anch'io spero di sì, perché bene o male io sono nuovo nel campo insieme anche agli altri, e quindi questo significa che c'è una tendenza al rinnovamento e al cercare nuove persone, nuovi volti, cioè dal punto di vista di lavoro per me. Dal punto di vista credo sia fisiologico, come gli eventi atmosferici che stanno accadendo, allucinanti, tipo vari terremoti in Italia, alluvioni, vento forte, la stessa roba. Questo è come un evento atmosferico pericoloso per gli andati o i vecchi, è positivo per i giovani. La rottamazione della natura, commedia. La natura che si ribella e porta, vabbè, ora sto facendo questo metaforone un po' apocalittico, però io la vedo un po' così, a dirti la verità. Allora, ne hanno parlato tutti e finalmente dal 19 marzo esce Fino a qui tutto bene. Grazie al regista Rohan Johnson, grazie a Il Cioni, Paolo Cioni, per essere stato con noi. Grazie a presto. Grazie a te, Marta. Ciao. Ciao. Vi dico allo stesso modo che ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Allo stesso modo, perdona. Chi non si copre ma si veste. Chi mangia ma non coltiva. Chi beve ma non si disseta. Chi fa musica ma non l'ascolta. Dai 35-40 in su ha riconosciuto la voce di Awana Gana, leggendaria voce della radio degli anni 70 e 80, ma ancora attivissimo in Francia. Parliamo di radio nel weekend in cui a Milano c'è Radio City, il festival dedicato alle radio nazionali, c'è anche Radio 24. Ma in questi giorni si è anche celebrato il 40esimo compleanno della radiofonia privata. Il 10 marzo 1975, infatti, nasceva Radio Milano International. Raccontare in maniera decisamente singolare le radio libere un documentario davvero pop. Si intitola On the Road di Massimo Ivan Falsetta. Questa è una stramaledetta trasmissione pirata e fuori legge. Tutte le frequenze nazionali verranno inondate di trasmissioni radiofoniche di repertorio degli anni 70 e 80. Erano gli anni in cui andava in onda sulla Rai la prima puntata di Atlas Furbo. Tutti i ripetitori della penisola, grazie a un virus in nostro possesso di nuova generazione, sono bloccati su quest'unica e rintracciabile frequenza. E ritorna una nuova era. Proprio degli estratti da questo On the Road, e abbiamo con noi in linea il regista Massimo Ivan Falsetta. Buongiorno Massimo. Buongiorno Massimo, io mi sono divertita come una pazza perché l'ho già visto in anteprima, perché tu ti sei inventato davvero qualcosa di folle. Allora, c'è questa storia di un comando un po' particolare che blocca tutte le radio che trasmettono ognuno i propri programmi, e tutte le radio improvvisamente cominciano a ritrasmettere solo i programmi del passato delle radio libere degli anni 70 e 80. Succede di tutto, arrivano gli alieni, arriva Fabrice Quagliotti che è il tastierista dei Rockets, arriva di tutto, ci sono appunto Awana Gana, Federico Olandese Volante, e poi c'è la parte documentaristica vera. Tu sei andato alla ricerca delle voci e di tutti quelli che andavano in onda nelle radio libere, e hai scelto in particolare la Calabria. Personaggi straordinari, dai nomi d'arte favolosi. Massimo, com'è andata quella ricerca? Quella ricerca è durata tanto. È durata tanto perché ho voluto trovare degli esempi di storie diverse una dall'altra, quindi con una diversa anche gradazione di modo di fare radio. Quindi abbiamo il piccolo personaggio della piccolissima emittente locale, lo speaker improvvisato, il fruttivendolo, il meccanico, chiunque, fino ad arrivare al grande speaker nazionale. Per rimanere in Calabria abbiamo avuto, e ci sono all'interno del documentario, anche degli speaker che hanno fatto la storia delle emittenti calabresi. Io perché ho preso la Calabria, in particolare queste storie? Perché comunque nell'epopea delle radio libere, in qualunque regione io fossi andato, avrei trovato delle storie sensazionali. Su quello diciamolo subito, cioè la storia delle radio libere è bella da Trento in giù. È verissimo, però devo dire che i personaggi che Massimo Ivan Falsetta ha trovato in Calabria sono davvero singolari. Ma come vi dicevo, ci sono anche voci note, notissime della radiofonia italiana. Io ascolterei un altro brevissimo estratto di On the Road, che tra pochissimi giorni sarà al cinema. Eccolo qua ancora, On the Road. Cosa devo fare? Scopri da dove trasmette quella radio. E interrompi le trasmissioni, secondo quello che ci permette la legge. Abbiamo pochi indizi, purtroppo, ma la voce della speaker dice che questa radio trasmette da una terra dimenticata da Dio. Accenti, inflessioni dialettali? Nessuna, anche se il segnale si è interrotto dal sud Italia. Parti subito. ricerca di questi speaker degli anni 70-80. Massimo, però la cosa divertente, io sono impazzita per questi volti, per queste voci. Ce n'è uno che ha intervistato accanto, credo che sia il camioncino nel quale lui vende peperoncini. Cioè, è tutto vero quello che hai trovato? No, assolutamente. Specifichiamo, è vero il personaggio. Ah, ok. Sì, però no, non è un venditore di peperoncini. No. Va detto per sua correttezza. Lui no, però è un impiegato del comune lì, dell'anagrafe, se non erro. Uno è diventato sindaco nel frattempo? Uno è diventato sindaco nel frattempo, quello di Radio Talpa, invece è diventato sindaco di Verbicaro. Nel film lui ad esempio racconta la storia di questa radio politica, un po' come Radio Out, insomma, diciamo. Beh sì, anche perché la Calabria è una terra di fermenti importanti anche in favore della legalità e sono passati anche attraverso le radio. Sì, c'è stato grande fermento ed è stato un grandissimo esempio di emancipazione per un territorio che comunque resta difficile oggi. Oggi possiamo immaginare quanto fosse ancora più difficile nell'epopea degli anni di piombo, laddove c'erano in tutta Italia comunque anni difficili. Immaginiamo in una terra dimenticata tutt'oggi, figuriamoci 40 anni fa. Quindi questa esperienza delle radio libere ha fatto sì che i calabresi potessero dire la loro voce. Mi è piaciuto moltissimo quell'entusiasmo, quella voglia di ricordare momenti di grande fantasia. Lo so che detto dai microfoni di una radio del 2015 può sembrare, non dico ipocrita, però insomma può sembrare non totalmente sincero, ma ve lo assicuro, c'è anche un po' di nostalgia. Io non li ho vissuti quegli anni, se non attraverso i racconti, però si respira un entusiasmo, appunto. Tu che sensazione hai avuto, Massimo? Infatti nemmeno io le ho vissute paradossalmente, nonostante ho creato l'opera, perché io sono del 78, quindi diciamo che li ho sfiorati tramite i ricordi di mio fratello, che invece mio fratello maggiore andava nella piccola radio libera del nostro paese, metteva musica hard rock, heavy metal in un paese piccolissimo della Calabria, dove si sentiva più che altro la musica italiana e la musica, diciamo, regionale, musica locale, insomma. Tuo fratello l'ha intervistato nel documentario? Mio fratello sì, interpreta un garagista, mentre invece nella vita è un farmacista, però appunto ci racconta come lui ha avuto l'idea di fare un programma appunto heavy metal in un paese dove si sentivano solo la musica popolare e la musica d'autore italiana, insomma. Quindi, sarà in sala dal 26 marzo. Come sarà distribuito? Dove sarà distribuito? Si potrà vedere anche al di fuori della Calabria? Io spero di sì, perché è veramente interessante. Sì. Ma infatti lancio subito questo messaggio. La Calabria è ambientazione, perché lo sto un pochino specificando, ma il film è un film a livello proprio nazionale. Dicevi bene tu, agli inizi c'è una vera e propria storia di finzione, come se vedessimo un film normale, voglio dire. È un film con una parte di finzione dove si... c'è all'interno una parte documentaristica con dei personaggi calabresi, però il film ha dei personaggi nazionali, che è girato tu stesso, da Wanagana a Fabrizio a Luandese Volante, a tanti personaggi, insomma. Hai detto un film normale, però un film assolutamente folle. Sei un pazzo, lo sai, perché veramente hai portato l'immaginario pop alle più estreme conseguenze. Sì, dai, se immagini che per la storia del mio film io e te adesso non potremmo nemmeno parlare, perché a Wanagana ha fatto saltare tutti i ripetitori della penisola, beh, esatto. Direi, se immagini che scende un alieno argentato e viene caricato su una duetto Spider Rossa degli anni 70, immagino io stesso che effettivamente con la testa sono andato un pochino oltre. Ecco, un po' di fantasia, però mi dicevi appunto si vedrà in tutta Italia. Sì, il film si vedrà in tutta Italia, è distribuito da distribuzione indipendente, che ringrazio proprio per il coraggio di aver portato quest'opera in tutta Italia. Uscirà in diverse copie in tutta la nazione. L'elenco delle sale lo possiamo trovare sul sito ufficiale del film, ontheroadfilm.it, dove man mano vengono sempre aggiornate le sale che accoglieranno il nostro piccolo grande film. Sono molto contenta, quindi On The Road, scritto proprio come le onde del mare, ontheroadfilm.it. Grazie al regista Massimo Ivan Falsetta per essere stato con noi, buon lavoro, a presto Massimo. Grazie a te, grazie davvero per le belle parole che hai detto per il film e per questo folle che lo ha creato. Sì, sì, folle, folle. Tifo molto per i folli. A proposito di folli, tra poco arriva Enrico Pagliarini. Anche questa volta avrà uno dei suoi esperimenti. Non so cosa ci farà provare tra poco, però tra poco ci ritroviamo con Enrico Pagliarini. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con la seconda parte della prima ora del nuovo sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema. Mi piace anche dire il tutorial per un bel weekend. Parliamo anche di consumi, parliamo anche di libri e parliamo anche e subito di tecnologie. Tracking treasure down. At the same time. At the same time. At the same time. At the same time. At the same time. At the same time. At the same time. Questi sono Gabriel Dresden. So che hai Enrico Pagliarini. Bella, bella, bella. Questa va ascoltata in dub. Sì. Beh, adesso ci parliamo un po' sopra. Poi però te la faccio sentire. Dopo tutta. La vado ad ascoltare si tutta. Si intitolava, è di qualche annetto fa, Tracking Treasure Down, cioè andando bello. A ritrovare il tesoro. Esatto. E perché tu mi hai detto parliamo di tracking devices e quindi ho detto troviamo un tracking qualcosa. Dunque, oggi parola d'ordine americana, però poi la traduciamo, anzi chiediamo l'aiuto agli ascoltatori per tradurla in italiano. Parliamo di un prodotto molto semplice, molto piccolo, molto economico, che sta arrivando sul mercato, si possono già acquistare, se andate nel negozio sotto casa difficilmente, però su internet o anche nei negozi di elettronica ormai quasi tutto lo compriamo si online, cominciano, sì, io però devo andare a comprare un phone adesso, passo da casa, passo al supermercato, sì, insomma, come dire, non è che faccio l'acquisto online in quel caso. Allora, i tracker sono strumenti semplicissimi, grandi come una moneta da 2 euro. Io vedo che ce n'è lì uno, sì, sembra una pastiglia per la gola. Sì, una cosa già, molto piccolini. Allora, funzionano grazie alla tecnologia Bluetooth che tutti conoscono, con l'ultima versione Bluetooth 4.0. Comunque, diciamo, se abbiamo uno smartphone di ultima generazione, siamo dotati di questa tecnologia che consuma poca energia, a cosa serve? Eh sì, perché tracking, io capisco che rintraccia qualcosa. Esatto, che cosa? È una cosa che rintraccia cose. Un oggetto che rintraccia cioè, cose. Per gli smemorati? Allora, io adesso l'ho attaccato alle chiavi. Al mio mazzo di chiavi. Sì, che una volta hai perso e te l'ho ritrovato io in un posto lontano sì, da qui. Sì. No, chiariamo prima che qualcuno si insospettisca. L'avevi lasciato in un negozio, io sono passata a recuperarti il mazzo di chiavi. Esatto. Allora, se io questo strumento lo collego al mio smartphone e faccio la prima cosa che devo fare è l'accoppiamento, cioè al mio smartphone dico guarda, devi riconoscere questa pastiglia che ho attaccato. Siete parenti, siete amici, siete parenti. Facciamo un esempio. Io ho nascosto le mie chiavi, il mio mazzo di chiavi con questo strumento nello zainetto e non le trovo più. Okay. Cosa posso fare? Posto che il mio smartphone è collegato con questo con questo oggetto, posso dire all'applicazione che c'è sul mio smartphone dov'è? Dove sono le chiavi? Sono? Allora schiaccio un bottone. Vediamo e se funziona. Succede così. Faccio sentire. Questo suona. Allora io sentendo il suono è come quando ti fai squillare il telefonino perché non lo trovi più. E infatti si può fare anche l'inverso. Cioè se io ho in mano le chiavi con questo strumento e non trovo più il telefonino, schiaccio un pulsantino che c'è sopra al questo tracker, questo oggetto, e funziona così. E questo è il mio telefono. Allora io vado a cercare il telefono, no? Ho subito 2 domande da farti. Dimmi. Uno, quanto costa? Allora, normalmente, adesso stiamo parlando della prima ondata di questi strumenti, quindi probabilmente, anzi sicuramente il prezzo si abbasserà e crollerà. Stiamo parlando di una cosa che costa dai 15 ai 20 ai 25 euro, sostanzialmente Okay. Quindi è chiaro ed evidente che se io ne devo comprare 10... spendo un pochettino, però quasi tutti questi prodotti vengono venduti a blocchi, quindi se ne compro 3, 4 alla volta risparmi un po', però grosso modo una ventina di euro. Perché ne posso accoppiare più d'uno, beh, non si può usare forse il verbo accoppiare, ne posso abbinare più d'uno. Abbinare allo smartphone, quindi ad esempio al mio smartphone con la mia applicazione potrei avere sotto controllo uno di questi oggetti che è attaccato al mazzo di chiavi, uno che è attaccato addirittura, che ne so, al portafogli, no? Potrei certo. Dipende che cosa perdiamo e che cosa... Allora, altra domanda succede? Che ho da farti però. Intanto chiamiamo Cristian, perché facciamo un esperimento. Cristian Goldoni, lo stai usando come l'assistente del mago? Sì. Il nostro assistente del programma Cristian Goldoni. No, l'altra domanda era, intanto arriva l'assistente del mago, Cristian. Adesso ti spiego cosa devi fare. Quanto può essere lontano l'oggetto che sto cercando? Allora, se siamo all'aperto, un 200 metri, 200-300 okay. metri massimo, se non abbiamo ostacoli davanti, però spesso viviamo, insomma, non è che viviamo in campagna all'aperto, c'è anche chi vive in campagna, però diciamo che perdiamo le cose, magari entriamo in casa oppure vogliamo cercare una cosa che abbiamo perso in casa, quindi in casa dipende dai muri che abbiamo, possiamo dire centinaia di metri, anche un po' meno. Allora adesso Cristian, ipotizziamo che o Cristian mi rubi le chiavi oppure l'inverso, che io mi allontani col mio smartphone e lasci le chiavi, ne so, in un cassetto e non mi ricordo più dove sono. Allora, Cristian, adesso se ne stanno andando. Fra poco cosa succederà? Mano a mano che queste chiavi vanno, essendo collegate in Bluetooth con il mio smartphone, l'applicazione si accorge che le chiavi si stanno allontanando e già mi dice che si stanno allontanando. Già si preoccupa dopo un po' di metri di lontananza l'applicazione. Cioè, in pratica, tu se aprissi l'applicazione. Eccolo qua. Cosa ti sta dicendo? Praticamente mi sta dicendo che sono uscito dal raggio d'azione. Adesso spegniamo. Speriamo che Cristian torni con le. Sennò va a casa tua. Allora, praticamente lo smartphone mi sta dicendo: guarda che la cosa a cui io sono abbinato, che in questo caso sono le chiavi, è uscita dal raggio d'azione. Quindi o forse sono due. Più facilmente al contrario, se io lo sto cercando mi sto avvicinando, mi sto allontanando. Allora in questo caso abbiamo simulato una cosa, io mi sto allontanando e lui mi avvisa che mi sto allontanando. Certo. Se io mi torno ad avvicinare, devo sapere dove sono qua fuoco, come si ad un certo punto posso fare quello che ho fatto prima, cioè quando sono a tiro di Bluetooth posso dire dove sono le chiavi. Allora a questo punto uno potrebbe dire: vabbè, ma se tu non sai dove sono le chiavi, come fai a trovarle? Allora, il sistema, qua parlo in generale, poi ogni ce ne sono vari di questi sistemi, ognuno di questi sistemi ha un modo, una modalità diversa, però sostanzialmente funzionano tutti in questo modo. Il sistema tiene traccia dell'ultima posizione rilevata. Certo, se siamo in casa devo fare un po' dei tentativi, se sono fuori dalla distanza per la quale posso farli suonare. Perché non ti dice in quale centimetro quadrato è. Non ancora. Diciamo che dovrei dotare la casa di strumenti che sono un po' troppo sofisticati. Difficilmente io riempio la casa di antenne Bluetooth per trovare gli oggetti in casa. Insomma, questo lo fanno magari nelle aziende. Però, diciamo, se perdiamo una cosa nello zainetto o nella macchina o anche in casa, diciamo, Cristian, dove sei sparito? Portami le chiavi, scusa. Hai paura che se ne vada con le tue chiavi, eh? Allora, cosa succede se io perdo o mi rubano lo strumento che ho abbinato con questo sistema Bluetooth e, che ne so, le chiavi finiscono in Piazza Duomo? Allora, questi sistemi sfruttano una novità che si chiama Crowd GPS. Allora, non hanno un GPS integrato, perché ci sono anche le versioni con la SIM col GPS, sì, ma costano un sacco di soldi, costano un sacco di soldi e consumano molta batteria. Qua stiamo parlando di una batteria che non deve ricaricare, dura circa un anno la batteria. Cioè GPS, e tra poco però dobbiamo dare anche al traffico il GPS, mi verrebbe da dire, sarebbe l'ideale se tu hai delle valigie però, e stai partendo per sapere dove sono, però posto che le valigie poi siano in una zona dove il segnale GPS Insomma, che cosa hanno fatto? Lo diciamo fra un minuto. Che cosa hanno scoperto i tecnici che hanno inventato questo sistema? Che cos'è il Crowd GPS? Ecco, allora il cliffhanger, il finale sospeso sul Crowd GPS. Perché adesso diamo la linea alla viabilità e ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Stiamo parlando di questi aggeggini che ci permettono di fare il tracking delle cose che abbiamo perso, accoppiando accoppiandoli ai nostri smartphone. Ecco il segnale che Pagliarini sta facendo parlare il suo smartphone con le sue chiavi di casa. Allora, aspetta che c'è un ascoltatore o ascoltatrice che al 349-238-6666 ci ha dato un'ottima idea. Posso ritrovare il bambino perso in spiaggia? Sì, allora per i bambini suggerisco di comprare quelli che hanno proprio il GPS, che sono un po' più sicuri, poi se vanno lontani il GPS dice ci sono. Da 3-4 anni, costano un pochettino di più perché hanno anche una SIM integrata, poi a seconda del modello ci sono o abbonamenti, perché devi pagare il traffico dati della SIM, certo, SIM dati, che viaggia tramite la telefonia mobile, qua invece no, è tutto Bluetooth. Allora, cosa succede in questo caso se l'oggetto si allontana fuori dal raggio di portata del Bluetooth? Allora, questo Crowd GPS è una sorta di collaborazione tra tutte le persone che hanno la stessa applicazione, lo stesso strumento. Ammettiamo appunto che queste mie chiavi finiscano in Piazza Duomo, ok? Se in Piazza Duomo passa una persona e rientra nel raggio d'azione del mio anche se non l'ha accoppiato col suo, anche se non l'ha accoppiato col suo, una volta che io l'ho perso, questo oggetto comunica a chiunque nel raggio d'azione, che sia però della stessa marca, diciamo, uh-huh, così, della stessa famiglia di questa applicazione, e in maniera anonima dal telefono di quella persona mi arriva un'allerta al mio telefono e mi dice: guarda che nella tal posizione è stato individuato un oggetto del genere. Dobbiamo riparlarne. Poi, perché ci sono ancora un po' di cose che non mi sono chiare, Enrico. Infatti ti faccio la lista, poi ti faccio tutte le domande in merito, perché adesso noi dobbiamo parlare di cinema. Quindi Enrico, ti saluto e ti do l'appuntamento alla prossima puntata del Sabato del Villaggio per parlare ancora di Aggeggi Infernali. Facciamo ancora delle prove, va bene? Facciamo delle prove, perfetto. Straordinario, ciao. A sabato prossimo, ciao, Enrico. Ciao. Entra. Oh, che bello azzurro. Smettila di blaterare. Oh, Ella, quasi dimenticavo. Rammenta, la magia avrà una sua durata. Quando sentirai l'eco dell'ultima campana, all'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo terminerà e tutto tornerà come era prima. A mezzanotte? A mezzanotte. È più che sufficiente. Allora va. Grazie, grazie. Oka, va! Arrivederci! Beh, siamo tutti pronti qua ad aspettare che la nostra zucca si trasformi in carrozza, perché il weekend di Cenerentola... Beh, no, forse Franco non sta aspettando la zucca. Guarda, le zucche le aspettano tutti. Beh, io aspetto una zuccona, diciamo così. Però, insomma, quella di Cenerentola è grande. È grande, ci stiamo. Buongiorno Franco d'Assisi. Ciao, allora, Marta. Franco, dobbiamo per forza cominciare con Cenerentola, perché ne abbiamo parlato tanto, l'attesa era tanta. Torna Cenerentola al cinema. Sai che tutti mi dicevano, ma come torna Cenerentola? Cenerentola al cinema non è il cartone animato di un tempo. Sì, ci sono stati tanti film ispirati alla favola di Cenerentola in questi anni, ma adesso stiamo parlando quella con la C maiuscola. Assolutamente, Cenerentola per quello è stata una splendida opera di Rossini. Insomma, voglio dire, cioè, Cenerentola è un tema su cui si sono cimentati tutti per tanto tempo in tante arti. Certo che Cenerentola per noi e per i nostri figli e chissà da quante generazioni è così, è quel cartone animato. Devo dire, Cenerentola l'ho trovato straordinario, davvero straordinario, per fattura, per realizzazione, ma soprattutto per una cosa: riuscire a fare questa operazione dal cartone animato all'azione in carne e ossa senza perdere la magia, che è il marchio Disney, il vero marchio Disney, cioè The Magic. Questa roba qui non si perde assolutamente, viene tenuta grazie alla regia di Kenneth Branagh, che è uno che quando dirige ha una sorta di bacchetta magica in mano, perché è uno che riesce a essere leggero e profondo nello stesso tempo. Pensate a un film come Molto rumore per nulla, per esempio, no? Ha un cast azzeccatissimo, a partire da Lily James, che è Cenerentola, secondo me, nella vita proprio, cioè fatta così. Ha i costumi, fatti in Italia peraltro, che sono straordinari, e insomma un cast di contorno che funziona, dal Principe Azzurro a Kate Blanchett perfida, alle sorellastre, a come hanno animato i topini, non facendoli parlare, ma insomma facendoli squittire in modo che sembrasse che ci fosse un codice di comunicazione con Cenerentola. Insomma, ambientazioni straordinarie, gran bel film. La scena del ballo, che è il cuore della vicenda, è incredibile, e io sono d'accordo con Cate Blanchett, che in conferenza stampa a Berlino ha detto: ho visto molte persone commuoversi durante quella scena del ballo, anche quelle non romantiche come me, vedi? Questo sì. ti dico coriaceo e attrezzato a ogni tipo, ecco, di cinema, ne ho viste di ogni, ti giuro che la lacrimuccia in quel momento lì è qua, e dici: ma perché in quel momento del ballo? Che sì. Però è la magia, è verissimo, il vero ingrediente Disney. Abbiamo parlato quindi già del film che si può andare a vedere in famiglia, invece per chi volesse l'uscitona americana, il filmone americano. Ci sono un paio di scelte. Una può essere Black Hat di Michael Mann, perché Michael Mann è sempre un regista, come dire, che vale la pena vedere, e perché lui, quando può applicarsi al noir, alle atmosfere thrilling, allo spionaggio, come fa in questo caso con questo Black Hat, è davvero a casa sua. Ma reduce dagli Oscar con ben 5 nomination c'era anche Foxcatcher, che è un film poco mainstream, molto molto indie come regia, è un film di una densità davvero straordinaria, è un film nel quale il regista Bennett Miller, come ha già fatto nei suoi film precedenti, toglie molto e asciuga molto, toglie per esempio molto alle musiche, non fa ridondare ogni scena con una musica che ti dice ta ta ta ta, e allora tu ti aspetti che non ci parte il violino, no, niente, proprio è una storia vera, tra l'altro. DuPont, erede del Vicotanta famiglia, vessato da una madre arcigna, Vanessa Redgrave, e però a sua volta voglioso di emanciparsi, ma frustrato anche un po' dal fatto di capire che viene considerato solo per i suoi soldi e non per la sua capacità di allenare una squadra di lotta. Però lui, siccome ha i soldi, si è messo in testa di portare un atleta alle Olimpiadi, quell'atleta è Channing Tatum, e lo porterà davvero alle Olimpiadi, istituendo il centro d'allenamento in questa tenuta di Foxcatcher, in una palestra avveniristica straordinaria. Il rapporto fra lui e il suo pupillo però non sarà mai un rapporto di vera stima, sarà un rapporto più di potere, e questo è un po' il cuore del film. Vorrei concludere con un accenno ai film italiani, lo diciamo sempre, consigli per chi ama il cinema italiano. Due consigli. Allora, se vuoi il sabato sera easy, ma che bella sorpresa, vai, c'è Claudio Bisio che ti fa sempre sorridere, c'è una storia che è quella di un film brasiliano che è stato di fatto questo è il remake, anche se con molta libera interpretazione, la storia di un uomo, un professore milanese che insegna a Napoli, che perde la donna amata, perde perché si lasciano, e comincia a frequentarne un'altra, bellissima, veramente fuori da ogni portata, peccato che sia immaginaria, lui la vede davvero, gli altri non la vedono, e lo vedono andare in giro a baciarsi i pali della luce. Se volete un po' più di intensità, io segnalo un'opera prima, come Cloro, che è passata al Festival di Berlino. Il Cloro è quello delle piscine dove si svolge il nuoto sincronizzato, che è lo sport di cui è più che appassionata e fonte di vita della protagonista, che è una ragazza di 17 anni, il padre ha perso la madre qui perché invece è morta, deve lasciare Ostia, deve lasciare l'acqua, deve lasciare il nuoto, deve andarsene negli Abruzzi, in montagna, in un altro elemento quasi, a provare a tenere in piedi una famiglia fatta di un padre in depressione e di un fratellino con tanti problemi. Come capite, qui il tono è drammatico, però è bravissima la protagonista in questo caso. Noi avremo ospite, tra l'altro, la Rosa Purpurea, Lamberto Sanfelice, di cui questo film è l'opera prima molto molto azzeccata. E quindi parleremo di Cloro e di tanti altri argomenti alla Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18. Invece noi torniamo tra poco a parlare in un certo senso della coppia Bisio e Matano, perché parleremo ancora di Italia's Got Talent, che è andato molto bene, molto molto bene giovedì sera. Ti lasciamo andare a preparare la Rosa Purpurea, ci sentiamo più tardi, quindi grazie Franco. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. Ancora buongiorno da Marta Cagnola, ancora insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, è questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, il nostro tutorial per un bel weekend. Nella terza ora poi dalle 17 alle 18 il consueto appuntamento con Radio Tube. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Musica e cibo, musica e vini, i sapori e i saperi viaggiano spesso insieme in TV, nei libri, ma anche semplicemente nella vita, ne parleremo più tardi. Il potere delle donne, ma anche i prodotti dell'anno 2015 nel nostro spazio dedicato alle nuove tendenze. Libri, ancora il fenomeno Missiroli, poi il nostro spazio che va oltre le sfumature e ancora un libro che ha ispirato un grande film. Ma prima, qual è la parola d'ordine della TV ultimamente? Beh, ovviamente talento. notizie da darti, una brutta e una bella. Brutta, amore, sono incinta. Quella bella? Bella, non sei tu il padre. Tranquillo, no, più che altro che io l'ho presa malissimo perché non me l'aspettavo, no? E quindi ho provato tutti i test in circolazione, ho provato anche quello nuovo, avete presente? No. Quello che non solo ti scrive se sei incinta, ma ti dice anche da quanto, di chi e dove si nasconde il bastardo, no? Ed è stato un debutto record quello di Italia's Got Talent su Sky 1, 1.113.000 spettatori medi, il 2,94% con picchi del 3,46, è stato l'esordio di un talent più forte in tutti i programmi di intrattenimento di Sky, più 114% rispetto al debutto di X Factor nel 2011, più 157% rispetto a Masterchef nel dicembre dello stesso anno. Numeri record su Twitter, oltre 103.000 persone hanno seguito il programma, ovviamente l'hashtag cancelletto IGT è andato benissimo. Ma allora, com'è andata la giuria? Luciana Littizzetto, Nina Zilli, Claudio Bisio e Frank Matano, che abbiamo avuto la scorsa settimana con noi al Sabato del Villaggio, ma insomma sono andati molto bene. In conduzione Vanessa Incontrada, l'abbiamo incontrata, lo so, sembra un gioco di parole, ma davvero le abbiamo chiesto proprio a Vanessa Incontrada cos'è, secondo lei, il talento. Bella domanda, che cos'è il talento? Come faccio io a definirlo che cos'è il talento? No, veramente, guarda, non è così semplice definire il talento. Allora, se tu pensi al talento, definisci che è qualcosa di particolare che una persona ha, no? Io penso sempre che il talento arrivi, è come se qualcuno da lassù, io che sono, che credo, no? Io penso che tutti noi, Dio, no? Ci dà come un... ci dice, tieni, questo è il dono che io ti do. Poi la vita a volte te lo fa sviluppare nel senso metaforico, però c'è chi riesce, no, a realizzare quello che è il suo dono, c'è chi non lo riesce, c'è chi lo scopre a un certo punto della sua vita, però credo che tutti noi, non solo, non è una cosa singolare, è una cosa che tutti abbiamo dei doni che ci danno da quando nasciamo. E c'è chi riesce a svilupparlo, c'è chi no. Quindi quello è il talento di una persona, secondo me, no? Il dono, avere in qualcosa che qualcuno dalla sua ha deciso che tu sei predisposto a volerlo fare o a farlo, lo fai in una maniera talmente unica che è come se ti venisse in quel momento una luce intorno a te e diventi luce, ti illumini. Vanessa, in questo Italia's Got Talent il tuo ruolo è quello di costruire un po' il racconto al di là della performance, che è poi una delle cose più belle che caratterizzano di più un talent show. Come hai lavorato? Guarda, credimi, l'ho detto anche in conferenza, una cosa non è stato semplice, perché, ripeto, io abituata davanti al palcoscenico, il pubblico davanti, quindi improvvisazione pura, io i gobbi manco so che cosa sono, a parte che non li vedo perché non vedo, cioè sono miope, quindi non vedo, non porto lenti a contatto, quindi i gobbi non se ne parla. E io vengo da una televisione totalmente improvvisata, no? Qui non. Poi allora, anche qua, perché ovviamente il racconto che io faccio con i talenti, con i parenti, con gli amici, io non ho mai voluto una scaletta, mai domande, quindi quello che mi arrivava, l'empatia delle persone, io, no, chiedevo, guardavo, osservavo. Non è semplice, perché in 5-10 minuti tu devi rapportarti con, non solo con la persona che sta per entrare, ma anche con, che tanti di loro venivano, con i genitori o con l'amico, con il fidanzato, quindi hai intorno a te un nucleo familiare che tu devi anche proteggere, perché in quel momento lì qualcuno di loro o loro stessi stanno per salire sul palco e stanno dando il meglio di loro con tutta un'emozione che io non so come facevano a gestire, perché in 100 secondi, cioè, non è che puoi dimostrare, c'è gente che dopo un po' parte, no? Infatti succedeva questo. Io devo dire che sono andata molto con i piedi di piombo, e la cosa più bella è che io con i giudici abbiamo i ruoli, sì, io sono la conduttrice, loro i giudici, però abbiamo retroceduto, cioè in realtà i veri protagonisti di tutto questo sono le persone che si esibiscono. Poi credetemi che sono anche le persone che gli stanno vicino, e di conseguenza poi noi li accompagniamo in questo viaggio, però è un presentare molto diverso da quello che Claudio e io, che abbiamo detto in conferenza, siamo abituati a fare, no? Che Italia hai visto che è un programma che confina coi sogni degli italiani anche? Guarda, ho visto un'Italia che dovrebbe dare, non dovrebbe, che A volte si deve guardare un po' più intorno, perché ci sono veramente di persone che hanno veramente tanto da dare, no? E siamo troppo abituati a vedere quello che c'è, no? Quello che funziona, siamo troppo ormai incasellati su quello che sono i numeri, su quello che, no? Allora c'è tutto troppo un meccanismo dietro di controllo, no? Io che faccio anche altri mestieri mi rendo conto che ci fossilizziamo, no? Sempre su quello che c'è, ma intorno c'è tanto di quel mondo che non vediamo. Perché? Perché siamo abituati a dire ok, questo è il prodotto, perché alla fine noi siamo prodotti, questo prodotto funziona, andiamo avanti con questo prodotto. Aspetta, sì, ma ci sono anche altre 300.000 persone che dai la possibilità, no? Non ti fossilizzare su questo. Quindi credo che l'Italia deve un po' aprire, no? Come posso dire? Aiutatemi, metaforicamente aprire la mente, il chakra, il karma, come si dica, e andare avanti, nuove esperienze, nuove avventure. Nuove esperienze, nuove avventure. Tra poco ci risentiamo dopo il traffico, perché devo anche leggervi un SMS che mi ha divertito tantissimo tra qualche istante, perché ora è il momento della viabilità. Il sabato del villaggio. E rieccoci ancora insieme con il sabato del villaggio. Io vi tengo compagnia fino alle 18, promesso come sempre. Però anche voi tenetemi compagnia. Vi ricordo il mio account di Twitter, per chi usasse Twitter, @ Marta Cagnola, l'hashtag ISDV come le iniziali del sabato del villaggio, e il numero per i vostri SMS 349-238-6666. Nella prima ora abbiamo parlato di cinema con Cenerentola. Abbiamo parlato degli aggeggini che ci ha presentato Enrico Pagliarini per ritrovare le cose quando le perdi. E Fabrizia da Vicenza, che oggi mi ha fatto svoltare la vita perché mi ha fatto troppo ridere con questo SMS, grazie Fabrizia, ha scritto: sarebbe stato impossibile per Cenerentola perdere la scarpetta con un aggeggio come quello presentato da Pagliarini. È vero, cambiano le favole con la tecnologia. Beh, ho troppo riso, grazie Fabrizia. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS, anche se volete farmi sorridere oltre a farmi compagnia. Adesso però è il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Un'immane tragedia ha travolto la nostra nazione. Siete stati sconfitti! Ora siete sotto il nostro comando! In casa mia non comanderanno mai. Hai qualcuno? Un ufficiale. Buonasera. Non lo guardiamo in faccia, non gli rivolgiamo la parola. Il tedesco, a casa mia, vuole Madeleine. L'ufficiale che vive qui. Non parlo con lui. Non è quello che mi risulta. Posso suonare qualcosa? Quel tedesco è un nemico. E questo era il trailer di Suite Francese, un film che è uscito questo fine settimana e che sta andando anche piuttosto bene al botteghino. I primi giorni di programmazione lo hanno piuttosto premiato. Il tema, insomma, lo capiamo anche dal trailer, ma ne parliamo nel nostro spazio dedicato ai libri, perché Oibò è tratto proprio da un libro. Alessandra Tedesco, buongiorno. Ma guarda caso, ultimamente parliamo sempre di film che vengono tratti da libri. Veramente i libri sono una grande fonte di immaginazione, di ispirazione. Ah, se si leggessero più libri. Ah, certo, invece poi uno legge, va a vedere il film e scopre che il libro c'era ed era anche molto molto bello da leggere. Quindi, per chi avesse visto Suite Francese al cinema e fosse curioso, per chi invece volesse andarci un po' preparato, o per chi invece volesse godersi un bel libro, appunto, parliamo un po' di questo Suite Francese. Allora, Suite Francese è stato scritto da Irène Nemirovsky, pubblicato in Italia da Adelphi, ma adesso sono scaduti i diritti, quindi è stato pubblicato anche da Garzanti, da Newton & Compton, da Feltrinelli. Lei era una scrittrice ebrea, fu arrestata nel luglio del 1942 e fu deportata, poi morì poco dopo ad Auschwitz. Allora, nell'idea della scrittrice, questo Suite Francese sarebbe stato composto da 5 parti, quasi come fosse, insomma, un poema sinfonico. In realtà fece in tempo a scrivere solo le prime 2 parti. queste prime due parti che sono racchiuse in quello che oggi viene chiamato suite francese. C'è la prima parte, intitolata Tempesta in giugno, che racconta la Parigi degli anni 40, insomma era stata appena bombardata, e si seguono le vicende di alcune persone che abbandonano appunto Parigi per trovare sicurezza altrove. Nella seconda parte, Dolce, che poi è quella che ha ispirato più il film, è ambientato nella campagna francese durante appunto l'occupazione tedesca. Apparentemente c'è una vita tranquilla, e così una donna che è sposata ad un uomo che in realtà non ama, che è partito in guerra, si innamora di un ufficiale tedesco, e però la suocera lo scopre. Quindi, insomma, storia di passione, amore, sentimenti molto molto contrastanti. La storia curiosa che è legata a Suite francese è che questo è un romanzo che è stato pubblicato solo 60 anni dopo che era stato scritto appunto da Irène Némirovsky. Tra l'altro tu avevi incontrato la figlia di Irène Némirovsky. Esattamente, avevo incontrato, parliamo del 2009, perché adesso è morta anche lei, Denise Epstein, all'epoca aveva 80 anni se non erro, e lei ricordava esattamente quando le venne consegnata questa valigia marrone al cui interno c'era appunto il manoscritto di Suite francese. Fu lei 60 anni dopo a riscrivere a mano, a cercare di interpretare la calligrafia della madre Irène Némirovsky, e a scrivere così Suite francese, che venne pubblicato 60 anni dopo. E allora sentiamo che cosa ci dichiarò all'epoca Denise Epstein. Effectivement, c'est mon père qui m'a confié cette valise. In effetti non è stata mia madre ad affidarmi questa valigia, bensì mio padre, che è stato arrestato tre mesi dopo mia madre, e mio padre mi ha affidato contemporaneamente mia sorella, che aveva 5 anni, e questa valigia all'interno della quale c'era questo famoso quaderno di mia madre, e io ero una bambina obbediente e ho vegliato su questa valigia. Et voilà, et j'ai obéi à l'époque. J'étais obéissante à l'époque. Dopo quanto tempo ha aperto questa valigia e ha letto i diari di sua madre? J'ose à peine le dire. Aprire l'ho aperta, ma non ho mai aperto il quaderno. Ho aspettato quasi 60 anni per decidere di decifrare e ricopiare quello che c'era nel quaderno. Ouvrir, je l'ai ouvert, mais sans le lire. Perché ha aspettato così tanto tempo? C'était très douloureux. Il y avait la douleur. C'erano due ragioni. La prima è che era una cosa molto dolorosa, e soprattutto la seconda, soprattutto perché io non pensavo che ci fosse un romanzo, pensavamo che fosse un diario intimo. On pensait que c'était un journal intime. Poi questo è diventato un libro ed è stato pubblicato. Che sensazioni ha avuto, che cosa ha provato quando ha visto, insomma, che il pubblico poteva leggere questo diario? Après, évidemment, quand j'ai vu ma mère revivre. Ero molto contenta che mia madre rivivesse e che trovasse di nuovo un suo pubblico nel mondo intero. C'era anche molta sorpresa, dello stupore. Era come se adesso potessi calmarmi finalmente, trovare pace, perché c'era stata questa vittoria sull'oblio. E un sentiment de victoire. Che bella questa storia in tutta la sua tristezza. Alessandra, non ti posso non chiedere a chi consigliare questo Suite francese. Suite francese, secondo me, è un romanzo veramente molto molto intenso, avete sentito anche dalla storia che c'è intorno. Io lo consiglierei a chi ha voglia proprio di immergersi in una storia dei sentimenti forti ma anche contrastanti, perché l'abbiamo visto, una donna francese che si innamora dell'occupante tedesco, insomma non è così lì. E poi magari appunto un po' di ripasso di storia ci aiuta a ripassare, a ricordare, a non dimenticare. Alessandra, però io ti devo chiedere qualcosa di molto personale, perché io ti avevo promesso che l'avrei letto, non l'ho ancora fatto, però non ho ancora capito se questo Atti osceni in luogo privato di Marco Missiroli è davvero un grande libro oppure no, perché noi ne abbiamo parlato praticamente appena è uscito, poi è esploso, noi avevamo previsto il fenomeno, tu avevi previsto il fenomeno. recensioni contrastanti, ma tutte proprio di segno opposto, ma tutte molto intense. O è bellissimo o non è piaciuto per niente. Sì, infatti è un libro che sta dividendo molto. Atti osceni in luogo privato, Marco Missiroli, pubblicato da Feltrinelli. Noi ne avevamo parlato così, anche un po' per scherzo, nella famosa rubrichina che ci siamo inventate, Oltre le sfumature, insomma. Torna la rubrica. E sta avendo delle critiche, come dicevi tu, molto, molto diverse. Anche la reazione dei lettori, io l'ho fatto leggere ad alcuni amici, alcuni sono entusiasti, altri invece sono rimasti un po' spiazzati. Perché se ne sta parlando moltissimo ora? Perché la settimana scorsa su 7, che è l'inserto, insomma, il settimanale del Corriere della Sera, Antonio Dorrico, che è uno famoso per non essere tanto buono, insomma, con i voti, ha dato a questo libro 110 elode. Anche graficamente come era scritto era clamoroso. Cioè, quindi in pratica, hai capito, un sacco di gente ha iniziato a comprarlo, se ne parla, ma hai letto Atti Osceni? Poi ha una copertina che non possiamo far vedere, ma adesso twittiamo, anche perché siamo in fascia protetta, un po', come dire, che può turbare gli animi di qualcuno. I castica, ecco, diciamo. A me è piaciuto, io faccio parte di quelle a cui è piaciuto. Diciamo rapidamente di cosa parla: è l'educazione sentimentale e sessuale di un giovane italo-francese, dai 12 anni fino all'età adulta. La prima parte si svolge a Parigi, siamo a metà degli anni 70, il padre lo porta nel caffè dove per esempio c'è Sartre, insomma c'è anche molta cultura, molta letteratura, molti libri, e lui inizia ad avere i primi i primi rapporti con l'erotismo e con la sessualità. E poi la seconda parte invece dell'età adulta si svolge a Milano, insomma ci sono tutta una serie di donne che costellano la vita del protagonista, che si chiama Libero. Ma sentite un po' Missiroli che cosa dice lui stesso del suo libro e di queste strane reazioni. È ovvio che è un libro molto forte, a partire dal titolo, Atti osceni in luogo privato, dalla copertina, dal sesso viscerale, nudo, mai volgare, però è un libro forte, per cui è normale che ci sia un bivio. È molto strano che le donne lo amino particolarmente, mi aspettavo più gli uomini, invece... Anche io avrei pensato a un libro più maschile, ecco. E invece è ribaltato completamente, le donne sono proprio quelle che lo stanno portando, lo consigliano tremendamente, forse perché capiscono un po' come pensano gli uomini. Io lo consiglierei esattamente alle donne che vogliono capire come avviene la formazione emotiva ed erotica di un uomo. Allora mi serve tantissimo, io sto guardando Valeria in regia, ci serve, dobbiamo leggerlo. Poi se ne volete sapere di più, naturalmente l'appuntamento è stasera alle 22 col Cacciatore di Libri, perché ci sarà l'extended version. Extended version dell'intervista a Marco Missiroli e ai suoi Atti osceni. E allora, Cacciatore dei Libri, ricordatevi anche il podcast. Alessandra, la scorsa settimana ci hai abbandonato, però io l'ho detto, era perché ogni tanto, ecco, non siamo supereroi, ci si ammala pure, però adesso sei in forma, quindi non puoi scappare. Voglio una nuova puntata della nostra rubrica Oltre le sfumature, perché è ancora in classifica 50 Guarda, sfumature. Guarda, finché ci sarà in classifica il mio odiatissimo 50 sfumature di grigio, nero, rosso, arancione, io farò la rubrica contro, cioè vi consiglierò dei libri belli, secondo me, che hanno una parte erotica molto forte. Beh, anche se vi è piaciuto 50 sfumature, a maggior ragione continuate con questi libri così un po' intensi, un po' hot. Guarda, nella mia settimana di influenza a casa ho recuperato dalla mia libreria questo libro del 2003, addirittura nel reparto hot della libreria della Tedesco. Si intitola Politics, l'ha scritto Adam Thirlwell, pubblicato da Guanda, adesso c'è l'edizione economica in giro. È una storia ambientata a Londra, ti dico che è una storia, una versione hard di Jules Jim. Siamo in fascia protetta, quindi ci sono delle manette foderate di peluche rosa, poi c'è un ménage à trois, c'è un uomo, una donna, un'altra donna, insomma, politics. Pensiero stupendo, praticamente, molto molto bene. E quindi il consiglio per chi abbia amato le 50 sfumature... Mi sto distraendo perché mi sta mostrando la copertina che adesso vediamo naturalmente. Giusto per farti capire. No, anche perché si intitola Politics, ma si capisce dalla copertina che non è un libro che parla di politica. Molto bene Alessandra, quindi abbiamo già dato l'appuntamento con il tuo Cacciatore di Libri. Ricordiamo anche il podcast, perché chi volesse recuperare tutte le puntate, volesse anche conservarle. C'è tutto. E poi seguiteci naturalmente anche con le copertine, le twittiamo sempre come Ale Tebbina e Marta, tu ricordiamo anche il tuo. Sì, chiocciola Marta Cagnola, poi mi sgridano perché lo dico troppo, ma è il modo più semplice per comunicare con noi. Ci ritroviamo insieme a Alessandra al prossimo sabato del villaggio, avremo un ospite, guarda, sono già qua che lo aspetto perché sono molto molto contenta. Allora, al prossimo sabato con Alessandra Tedesco e come sempre con il cacciatore di libri. Ciao! Il sabato del villaggio. Ed eccoci ancora dopo questa brevissima pausa con il sabato del villaggio di Radio 24, dove il villaggio, lo sapete, ve lo ripeto fino a esaurimento, il nostro villaggio globale, il nostro tutorial, questo per un bel weekend. La nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e cosa ci è rimasto, di cosa non abbiamo ancora parlato? Beh, come sempre a quest'ora, consumi. Che è la colonna sonora in realtà di uno spot pubblicitario, uno spot che parla di donne, perché parliamo di pubblicità, parliamo di donne in questo spazio dedicato come sempre ai consumi e alle nuove tendenze con la nostra Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto anche agli ascoltatori. Sì, perché oggi vogliamo parlare di parità di genere, Marta, un tema su cui stanno puntando molte campagne pubblicitarie appunto, oppure viceversa un tema che ancora in noi viene ignorato, viene sottovalutato da altre campagne pubblicitarie, un tema che compare non solo nell'agenda di molti governi, ma recentemente, Marta, tu lo sai perché l'hai seguito in diretta, se ne è parlato tanto. È arrivato anche sul palco della serata degli Oscar con il discorso molto importante, bello tra l'altro, di Patricia Arquette, giusto? Arquette. Okay. Sì, sì, che diceva vogliamo le stesse opportunità degli uomini, ma non solo, vogliamo essere pagate allo stesso modo, parità di retribuzione. Sì. Già, ok. L'anno scorso Pubblicità Progresso ha lanciato una grossa campagna proprio a favore della parità di genere, punto su di te. È appena partita la seconda fase di questa campagna Woman in Job, che si concentra proprio sull'uguaglianza del salario tra uomo e donna. Ne parliamo con il presidente di Pubblicità Progresso, il nostro ospite di oggi, Alberto Contri. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Allora, in cosa consiste questa iniziativa Woman in Job? Beh, innanzitutto la campagna, che è già partita, come avete detto, da un anno, è divisa ovviamente in due, come oggi si usa fare una campagna sociale efficace, cioè c'è una parte sui media classici che denuncia la situazione del modo con cui ancora oggi il maschio italiano guarda la donna, eccetera, eccetera. Però poi tutta la parte, diciamo, sui media classici, per media classici intendo TV, radio e stampa, rimanda a un portale che si chiama appunto Su di te, nel quale ci sono tutta una serie di suggerimenti, aiuti. Per esempio suggeriamo alle donne o agli uomini che vedessero, per esempio, siccome si usa molto criticare la pubblicità che discrimina la donna oppure la vede solo come oggetto di desiderio sessuale, cose di questo genere, possono denunciarle direttamente all'istituto di autodisciplina ricamando un modulo dal sito e rimandandolo indietro, quindi con un click molto semplice si può fare una cosa che il 90% degli italiani non sa, che si può benissimo, nel momento in cui si ritiene offesi da una qualche immagine lesiva dell'immagine della donna, si può chiedere al giurì di rimuoverla. Poi c'è tutta una parte in cui tramite un piccolo motore di ricerca da qualunque parte d'Italia si intervenga su determinate materie come aiuto alla famiglia, aiuto alla conciliazione dei tempi, assistenza agli anziani e tante altre cose che possono essere utili per venire incontro al doppio lavoro che di norma una donna si deve sobbarcare, ci sono tutti gli enti, le istituzioni e gli istituti che possono dare una mano in questo senso del territorio da dove uno segnala. Per venire al punto, in occasione della festa della donna, siccome noi, devo dire, proprio anche per tradizione siamo un pochettino come si potrebbe dire, sospettosi, ecco, nei confronti di queste feste. Adesso tra un po' arriva la festa del papà, poi c'è la festa della mamma, poi c'è l'anno di questo, l'anno di quell'altro, che fatalmente in larga parte si trasformano in un fiume di retorica, in un momento di ricordo, e poi la cosa passa. Allora noi abbiamo lanciato un hashtag che si chiama appunto Woman in Job, che rimanda a una parte del sito sia di Pulizia Progresso che di Punto Su di Te, in cui trattiamo due aspetti estremamente precisi. Cioè, adesso va bene, ci siamo detti tante parole, però poi diciamoci la verità, la vera parità la si raggiunge, uno, se si raggiunge, cominciamo dalla parità di salario, che sappiamo bene c'è un divario di circa il 20% in meno delle donne rispetto all'uomo, e poi l'altro problema che è assolutamente importante, che è la cosiddetta conciliazione dei tempi. Cioè, una donna, come fa una donna a fare carriera se poi alle 6 del pomeriggio deve schizzare a casa perché deve aiutare bambina, non può partecipare alla riunione importante col capo, eccetera eccetera eccetera, e allora qui nascono tutta una serie di problematiche. Su questo siamo andati a sentire, oltre che aver citato anche noi cosa ha detto Patricia Arquette, ma anche l'hashtag che ha lanciato Reese Witherspoon, che è un'altra attrice che la stessa sera degli Oscar ha detto chiedeteci di più, ha lanciato questo hashtag che si chiama chiedeteci di più, in cui sollecita i giornalisti a dire va bene chiederci che vestito metteremo sul tappeto rosso, ma non volete chiederci qualcosa di più delle nostre aspirazioni artistiche, cosa facciamo nella carriera. Così, sollecitati da questo, abbiamo intervistato Claudia Gerini, attrice famosissima in Italia, anche perché avevamo visto una sua dichiarazione di qualche giorno prima, dove lei sosteneva che nel mondo dello spettacolo le donne sono pagate veramente molto meno. Per cui c'è un'intervista di Claudia che esprime molto chiaramente questo problema, dicendo che la colpa ovviamente è dei produttori, quindi lancia un appello nei confronti dei produttori, però poi spiega anche come ha fatto lei, che ha due figlie, una di 10 e una di 5 anni, a trovare una modalità di fare un lavoro così complesso come quello dell'artista, concordando con il suo compagno degli spazi, lei stessa prendendosi degli impegni abbastanza diradati per poter stare in famiglia, e comunque trovando delle modalità in cui molto del lavoro lo fa anche lui. Non a caso l'immagine di questa nostra campagna presa da uno spot è un giovane marito in mutande che davanti alla lavatrice c'ha in mano un braccio in bambino, nell'altro il secchio della spazzatura. Insomma, sta facendo tutta una serie di cose che le donne fanno abitualmente. Grazie ad Alberto Contri per essere stato con noi. Bello parlare di donne anche nei mass media, e anche con una sottolineatura sulla creatività di queste campagne, che sono davvero belle. Ciao Alberto, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Adesso però è il momento di parlare dei nostri suggerimenti anticrisi, di tutte le strategie. Questa volta andiamo a curiosare negli scaffali, Maria Luisa, negli scaffali dei supermercati e non solo? Ebbene sì, ti è mai capitato, Marta, di vedere nella pubblicità di alcuni prodotti quel logo rosso con scritto Eletto Prodotto dell'Anno? Ah certo, gli spot Eletto Prodotto dell'Anno 2015, ma è vero? Ma è una cosa vera, reale? È una cosa vera, reale, ce la facciamo raccontare, scopriamo tutto. Dalla direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buon pomeriggio. Ciao Cristina, raccontami tutto, perché io non mi fido. È vera davvero questa cosa del prodotto dell'anno? È verissima, anzi, prodotto dell'anno che arriva dalla Francia, ormai compiuto 10 anni anche in Italia, i consumatori che premiano l'innovazione. Ed effettivamente, se negli ultimi anni, diciamo, ce l'abbiamo avuto qualche problema a trovare dei prodotti innovativi, quest'anno effettivamente sono emersi apparecchie novità. Tanto per incominciare, noi italiani, secondo i dati raccolti dai RAI proprio per la ricerca fatta per il prodotto dell'anno, soprattutto gli uomini ma anche le donne, mettiamo al primo posto qualità prezzo, cui poi aggiungiamo al secondo posto l'innovazione, cioè vogliono dei prodotti che propongano qualcosa di nuovo. E al terzo posto cosa ci può essere? Il servizio nel prodotto. Di fatto abbiamo tutti meno tempo, stiamo molto attenti ai prodotti che compriamo per capire se effettivamente valgono i soldi che spendiamo, e nel contempo vogliamo che ci risolvano un po' di problemi. E questo, le donne sono un pochino più attente ai prodotti made in Italy, gli uomini più proprio all'innovazione vera. Ma come vengono scelti questi prodotti? Allora, non tutti, devo dire che un po' li ho scoperti qui. E effettivamente ci sono dei prodotti, ad esempio, vi faccio l'esempio, la linea Superfrutti, di una famosa azienda che non so se posso fare il nome, comunque è una linea di frutti stranissimi che, di cui in alcune parti non, che nascono in alcune parti del mondo, quindi io non l'avevo mai sentito, ma ognuno di questi ha una funzione ben precisa, quindi di fatto io me li comprerò tutti perché ho scoperto di avere un sacco di bisogni in questo senso. Ma ci sono anche prodotti come più di, come dire, già pronti, ad esempio tonno e fagioli, verdure grigliate e tonno, eccetera, di un'altra azienda italiana importante. Ecco, questo è piaciuto molto perché effettivamente uno ha già un piatto pronto in vetro, per cui lo vedi, cioè è un po' diverso rispetto a quelle scatolette che normalmente quando non vedi il prodotto dentro ti fidi, non ti fidi. Invece questo lo guardi, effettivamente ognuno ha proprio il colore, il verde è verde, il rosso è rosso, il tonno è color tonno, cosa che aiuta. Vengono effettivamente votati dai consumatori, diciamolo. Sono i consumatori, che votano questi prodotti e li selezionano in base al fatto che li hanno trovati sugli scaffali, li hanno provati e hanno detto questo prodotto mi piace, lo trovo innovativo. La cosa importante è che non sono i più buoni, sono i più innovativi, saranno anche molto buoni, però di fatto il premio va a cercare proprio le novità, le cose, e se devo dire, guardando un po' anche la selezione che ne è uscita, tantissimi prodotti legati proprio al benessere, alla bellezza, eccetera, qualche prodotto che è abbastanza una novità legata invece proprio alla, anche alla green, quindi prodotti eco piuttosto che il lievito madre che fa la sua comparsata anche qui, che bene o male qui parliamo di largo consumo, innovare nel largo consumo non è facile perché deve essere un'innovazione che deve appagare milioni di persone, non 10 eletti, quindi nel momento in cui studi una cosa del genere, fai un lancio del genere, c'è anche un investimento importante. Ci sono anche le sottilette senza lattosio, questo mi sembra quasi va oltre addirittura. Oltre all'alimentare, Cristina, che hai citato, quindi anche gli alimenti funzionali, quelli per chi ha particolari esigenze, un altro dei settori, immagino, insomma, in cui si concentra l'innovazione, io penso alla cura della persona. Sì, sì, sì, la cura della persona dentro e fuori, perché appaiono nella lista anche gli integratori, così come delle creme per il viso, in particolare ce n'è una che tu la metti la sera prima di andare a dormire e ti stira le rughe, quindi poi ti svegli al mattino questa. E non dico che sei nuova perché sarebbe bellissimo, ma diciamo un po' meglio di quando sei andata a dormire. Una vabbè, bella promessa. Adesso vado a fare la spesa, poi la provo, poi ti dico se mi sono svegliata. Sono anche collant, scusate se vi interrompo, il collant senza cuciture, un'altra grande novità, che conosciamo tutti il fastidio delle cuciture collanti, invece adesso sono stati lanciati dopo uno studio ventennale, ci hanno raccontato che questi collanti che non hanno nessuna cucitura, per cui non solo non segnano ma non infastidiscono nemmeno. In un certo senso miracolosi anche questi. Maria Luisa. Grazie Cristina, a sabato prossimo. Grazie a voi. Grazie, a voi. A presto a Cristina Lazzati. Luisa invece con te l'appuntamento domani, come sempre. Alle 15, essere a vero. Un saluto Marta, ciao a tutti. A presto e anche al prossimo Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E siamo agli ultimi minuti del nostro Sabato del Villaggio prima di cambiarci d'abito e passare all'ora di RadioTube, tutte le notizie della rete e dalla rete con Daniele Bellasio, che stiamo ancora aspettando per la terza ora del Sabato del Villaggio, quella di RadioTube. Ora però parliamo di musica e cibo, musica e vini, perché i sapori e i saperi viaggiano spesso insieme, in TV, nei libri, ma anche semplicemente nella vita. Partiamo dalla TV, da un canale al quale io sono molto affezionata, che è Sky Arte HD. È ricominciato questa settimana il viaggio di uno dei più famosi chef, Joe Bastianic, alla ricerca non di cibo, ma di musica. What's up, chef? Oh, that's the chicken thighs. Love that dish. I had it for lunch the other day. Really good. Mi chiamo Joe Bastianic e come sapete mi occupo di cucina. Ma se devo continuare a fare solo il MasterChef, io moro. Bound by wild desire. Questo è il mio amico Mike, batterista e chitarrista della mia band The Ramps. Into a burning ring of Da tempo la musica è la mia grande passione. E dato che io sono americano, ma la famiglia è di origini italiane, ho coinvolto Mike in una sfida molto ambiziosa. Un viaggio in Italia alla scoperta della musica tradizionale, incontrare gli artisti più importanti e suonare con loro in un grande concerto finale. American country meets Italian folk. Chiesto a Gianni in regia si mi rimetteva un po' di questa Ring of Fire, che è un grandissimo capolavoro. Joe Bastianich Music Tour va in onda il mercoledì sera, va quest'anno in Sicilia, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia, e noi abbiamo incontrato proprio Joe Bastianich. Ma io ho la grande fortuna di venire in vostro bel paese come un americano straniero, forse un'ottica un po' diversa, riesco a vedere, a raccontare le cose che voi prendete come che esistano già, e invece per me è una grande celebrazione della cultura musicale, la grande cultura italiana, la diversità d'Italia, che è la cosa più importante nel vino, nel cibo, anche nella musica. Sicilia, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, tre regioni diversissime con tradizioni. Abbiamo coperto un po' tutto. Sicilia sicuramente colpisce l'anima di questo programma, perché Sicilia è un racconto di scambi culturali, e chi ha scambiato più nel mondo che Sicilia, che ha esportato i migranti nel tutto il mondo per 150 anni, che hanno portato il cibo, la cultura, il canto siciliano per il mondo, Australia, Canada, America, e poi Australia se stesso, che sostiene, è come una spugna, prendi musica balcana, arabica, africana, è la ragione forse più potente in questo racconto di Under Road. Emilia Romagna ha scoperto il liscio, adesso ballo in continuazione il liscio perché ci sta, e Friuli Venezia Giulia sono le canzoni della mia gioventù, che mio padre cantava in casa, suonava la fisarmonica, allora anche lì è una cosa molto emozionale. Posto che il tuo primo mestiere ormai è quello del musicista e cuoco quasi per hobby, c'è un legame tra le terre di grande tradizione culinaria e tradizione musicale? Sicuramente sono le cose che, come l'aria e l'acqua, che sostengono di più il spirito e il corpo umano. Non c'è senza musica, senza cibo, vino e acqua, non c'è la persona. E ai giovani che non ascoltano più le musiche tradizionali cosa diresti? Beh, il nostro sfido è un po' di raccontare quello, perché c'è tutto di riprendere della musica tradizionale, culturale, e reinterpretarla nella musica di oggi. E sta succedendo, e noi vogliamo che succeda sempre di più. Non abbinare Johnny Cash all'orchestra Casadei, dico io. Sì, lo facciamo, anche se per parlare con un bolognese io uso una musica romagnola, vabbè, Emilia Romagna, Joe Bastianich li ha messi insieme. Noi abbiamo in linea un esperto di viaggi, appassionato di radio, ma soprattutto grandissimo conoscitore di vini e musica. Buongiorno a Patrizio Righetti. Ciao Patrizio. Buongiorno Marta. Senti, come stai? Ma che bello sentirci per radio, perché noi siamo amici, ci sentiamo, però questa volta in radio, così. Esattamente. Sfrutto le tue competenze, perché voglio capire, perché appunto Joe Bastianich ci ha detto che musica e cibo vanno insieme, ma quindi anche musica e vini? Assolutamente. Vino e musica si intrecciano da sempre, a partire praticamente dal periodo dove i monasteri in Europa erano diciamo il fulcro, sia dal punto di vista musicale per i liti liturgici, ma lo stesso anche per la preparazione del vino, perché era, anzi, in quel periodo, parliamo del IX secolo dopo Cristo, erano proprio i monasteri che mantenevano la cultura e la tradizione della viticoltura, tanto che il famoso metodo Champenoise è stato proprio un monaco a inventarselo e creare il diciamo lo champagne. Quindi ora et labora, ma anche bevi e canta tutto insieme, fantastico. Assolutamente, ma poi nel corso degli anni. Se si guarda adesso, senza guardare troppo nei secoli scorsi, ma anche proprio, io sono di Bologna, negli anni 70 a Bologna le mie osterie erano famose forse anche in tutta Italia, perché c'erano tantissimi cantautori che abbinavano volentieri le loro canzoni con delle buone bottiglie di vino. Uno tra tutti era Francesco Guccini, e tra le altre cose, cioè, ce n'è testimonianza anche in un bel, non lo so, via Paolo Fabbri, ecco, che parla di vino in maniera, diciamo, così evidente. Mi piace questo abbinamento, perché insomma davvero si possono sposare. Io ti devo chiedere un consiglio per questa sera, sera di quasi inizio primavera, cioè quasi un accenno di sole qui a Milano, chissà a Bologna. Consigliami un vino e un disco per questa sera. Ma guarda, io assolutamente mi verrebbe da consigliarti. Io sono un grande amante, anche perché ho avuto occasione di intervistarla, di Erika Mu, che è una cantante giovane, un po' indie così, e ha fatto questa bellissima canzone che so che tu conosci perfettamente, che è Dove cadono i fulmini, che è stata una canzone che è stata candidata ai David di Donatello perché era la colonna sonora del film di Rocco Papaleo, Una piccola impresa meridionale. Certo. E quindi ci beviamo un vino meridionale? Ah, assolutamente, perché la canzone, che è estremamente intimista, però si abbina benissimo alla freschezza di un Gravina Bianco, che è questo vino pugliese. Ovviamente ho pensato proprio a Erika, che anche lei è pugliese, e il suo carattere salmastro di macchia mediterranea si fonde proprio per, come così, in concordanza con la voce della Mu, e soprattutto crea una grandissima atmosfera, perché la cosa, diciamo, fondamentale è propriamente una convivialità. Cioè, le esperienze del vino e della musica, quelle più belle e quelle più divertenti, sono possibilmente sempre condivise con gli amici. Che meraviglia. Patrizio, ti possiamo disturbare ancora nelle prossime puntate per chiederti un po' di abbinamenti vino e musica? Mi piace molto questo discorso. Ci facciamo ancora una chiacchierata, una bevutina, anche se solo radiofonica, insieme? Molto volentieri. Grazie a Patrizio Righetti. Per sapere qual è il suo account di Twitter, io adesso ve lo twitto perché è difficilissimo dirvelo in radio. Noi ci ritroviamo tra poco, perché dobbiamo, lo dico sempre, cambiarci d'abito, cambiare studio, perché è il momento di RadioTube. Adesso è l'ora della giornale radio delle 17. A tra poco, ancora insieme con il Sabato del Villaggio e con RadioTube.